Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il caffè della domenica di Maria Latella. Buongiorno, buona domenica, buon caffè. Parte la prima puntata del caffè della domenica e do il benvenuto alla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Buon caffè della domenica a lei, ministro. Grazie per l'invito, dottoressa Latella. Ministro, le scuole riaprono dopo mesi di chiusura e ci sono tante domande, io ne ho moltissime per lei. Cominciamo dal primo giorno di scuola. Chi prende la temperatura all'ingresso? Come si entra in piccoli gruppi, in grandi gruppi? Ci racconta come sarà questo primo giorno? Innanzitutto penso sarà un giorno molto emozionante, perché è vero che le scuole hanno riaperto le proprie porte agli studenti che stanno facendo i recuperi dal 1 settembre, però dal 14 ritorneranno tutti a scuola. E se pensiamo che da marzo le attività didattiche in presenza si erano interrotte, credo che sarà un'emozione per tutti quanti, per tutto il personale scolastico e per tutti gli studenti e le studentesse. La temperatura, come ha prescritto il Comitato Tecnico Scientifico, si misura a casa, e questo per evitare che se ci fossero studenti già malati o comunque sintomatici possano prendere gli autobus e quindi diventare un pericolo sostanzialmente per tutti gli altri compagni e compagne di avventura, potremmo dire. E questa è una regola importante, è una regola per cui si è chiesto di avere responsabilità delle famiglie, ma anche degli studenti, soprattutto quelli più grandi. Saranno accolti gli studenti dal personale scolastico, dai collaboratori scolastici e dai loro docenti, come è sempre avvenuto tutti gli anni. Si devono evitare gli assembramenti fuori da scuola, quindi gli istituti scolastici, se in passato utilizzavano un ingresso soltanto per far entrare gli studenti e le studentesse a scuola, oggi utilizzeranno tutti gli ingressi che hanno a disposizione, perché gli assembramenti chiaramente vanno evitati. Ministro, ci sono tante categorie a rischio, in questi giorni abbiamo visto la nascita anche di molte iniziative per le famiglie dei medici che hanno perso i loro cari a causa del Covid. Segnalo in particolare l'iniziativa voluta dall'imprenditore Diego Della Valle, sempre con voi, che dà accesso a un bonus alle famiglie che hanno perso il loro caro, famiglie dei medici. Ma tra le categorie a rischio ci sono anche gli insegnanti. Le chiedo, un insegnante di oltre 55 anni può chiedere di essere esentato dalla presenza fisica in scuola o no? Qui si è fatta un po' di confusione. Avere un'età di 55 anni non equivale ad essere un lavoratore fragile. L'equazione che è stata fatta è scorretta. Bisogna avere 55 anni, bisogna avere delle patologie pregresse di un certo rilievo. L'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute sono intervenuti con una circolare dove si spiega molto bene questo. Quindi quei numeri che avevamo potuto leggere un po' sui giornali, 300.000 docenti, quasi come se 300.000 docenti si rifiutavano di entrare a scuola, non corrisponde al vero. Quindi c'è tutta una procedura che prevede le visite mediche collegiali e via dicendo, per stabilire se un lavoratore è fragile o meno e quindi se deve essere poi sottoposto a sorveglianza speciale. E se una classe ha un contagiato, per esempio è successo a Roma in un istituto privato, vi attiverete come già fanno in Francia e in Germania, cioè si chiude solo quella classe, cioè si lasciano in quarantena i bambini, gli studenti solo di quella classe, il resto della scuola va avanti? Sarà così? Allora, anche in questo caso noi ovviamente abbiamo lavorato tutta l'estate per ridurre al minimo i rischi di contagio nelle scuole, però è evidente che la scuola non è un posto fatato, un luogo asettico, incontaminato, in cui il rischio sia rischio zero. Ed è per questo che noi ci siamo preparati sempre con l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute per avere un protocollo e delle regole che dicessero esattamente alle scuole cosa si fa nel caso ci possa essere un contagiato in classe. Sono i dipartimenti di prevenzione territoriale ad attivarsi immediatamente. Lei consideri che dal 14 settembre la partita della scuola diventa soprattutto una partita molto sanitaria. L'esempio del Marymount di Roma, questa scuola paritaria nella quale c'è stato un caso Covid, ci dimostra come i protocolli stanno funzionando e sono già all'opera, perché non è che è andata in quarantena l'intera scuola. Inizialmente si era parlato di 65 persone in quella scuola da mandare in quarantena, poi sono stati attivati i protocolli, si sono fatti i controlli e in questo momento, se non sbaglio, ci sono 9 persone in quarantena. Quindi, come vede, il numero è molto ristretto, 9 rispetto ad un'intera scuola, significa che la scuola continua a lavorare, continua ovviamente a fare quello che faceva prima e quei 9 andranno in didattica a distanza, quindi comunque continueranno certo il loro percorso di apprendimento. Senta Ministro, poco fa proprio ai microfoni di Radio 24 Matteo Salvini ha detto che questo governo non si occupa della scuola. Lei immagina che se ci saranno di nuovo dei contagi, come è prevedibile, come lei ha appena detto, è inevitabile che succeda, e quindi si chiuderà magari una classe o anche un intero istituto scolastico, Salvini o altri chiederanno di nuovo le sue dimissioni, e in quel caso lei che cosa farà? Io non ho ancora capito quale sia la credibilità di Salvini per salire in cattedra e parlare di scuola. Vorrei ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che il 5 agosto 2008 Salvini, da deputato della Repubblica Italiana, ha votato per il taglio sciagurato di 8 miliardi alla scuola. È abituato, come posso dirle, ad abbacinare i cittadini italiani, a illuderli, a ingannarli. Purtroppo le quarantene delle classi nelle scuole ci sono in tutta Europa, ci sono in tutto il mondo. La Francia ha riaperto da poco e tantissime classi sono in quarantena, idem la Germania. Cioè, sarebbe assurdo pensare che la scuola possa essere esente da questi fenomeni, ma è altrettanto vero, e Matteo Salvini dovrebbe ricordarlo, che l'Italia è l'unico paese che ha investito 3 miliardi quasi per la riapertura delle scuole, che ha lavorato per trovare ulteriori spazi, cosa che in altri paesi non è stata fatta, e si stanno mettendo 70.000 persone in più tra docenti e ATA per garantire al massimo la sicurezza di tutto il nostro personale scolastico e dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Guardi, io sono veramente disposta a spiegare queste cose a Matteo Salvini anche in un confronto televisivo che ho chiesto. Salvini si è defilato. Non lo so, vogliamo dire che è scappato, che si nasconde dietro i social? Possiamo anche dirlo, lei ma io sa, sono disposta lei a fare sa che un confronto io, sulla io faccio scuola. Anche, lei sa che io faccio anche televisione, e questo mi induce a invitarvi tutti e due nel mio programma a Sky. Vedremo se verrete. Senta, Ministro, a parlare di scuola seriamente e non fare propaganda sul plexiglass? Io sono assolutamente disposta a spiegargli un po' bene di cose. Allora, siete invitati. A proposito di TV, ma ha visto la limitazione che fa Crozza? Noi tra poco, a Nessuna è perfetta, avremo ospite la moglie di Crozza, la bravissima attrice Carla Signoris, ma quell'imitazione di Crozza che effetto le ha fatto? Ma posso dirle la verità, io adoro Crozza, cioè rido da una vita quando vedo Crozza e le sue imitazioni. Lei pensi che addirittura ho tante volte condiviso pure sulla mia pagina Facebook le imitazioni che faceva Crozza, quindi che dirle, ho riso tantissimo quando ho visto la mia imitazione. Se poi mi somiglia o meno, cioè, non lo so, forse ci sono dei margini di miglioramento, però è divertentissimo. Senta, sul Sole 24 Ore ieri il collega Claudio Tucci ha parlato di quella che doveva essere una cosa che lei, Ministro, aspettava molto, la chiamata veloce, e che però si è rivelata un po' un flop. Sono arrivate solo 2.500 domande. Allora, cosa significa? Che molti insegnanti che dal sud avrebbero dovuto trasferirsi al nord avendo un posto fisso piuttosto hanno preferito rinunciare? Allora, è uno strumento nuovo, secondo me ha margini di miglioramento, di questo ne sono assolutamente convinta. È vero, sono 2.500 quelli che hanno inoltrato la domanda, ho letto anche tanti messaggi di felicità, pure sui social di questi 2005 a cui viene data la possibilità di avere un contratto a tempo indeterminato. In realtà dai dati che avevamo noi come Ministero dell'Istruzione erano state inserite circa 10.000 domande, quindi quei 7.500 che poi non hanno inoltrato probabilmente forse hanno avuto paura a trasferirsi, forse l'effetto Covid c'è in un periodo di pandemia, si è avuto un po' di paura, forse hanno pensato ulteriori quarantene o altro, però io credo che questo sia stata una buona possibilità che è stata data agli insegnanti, qualcuno l'ha accolta e credo che sia uno strumento che debba rimanere comunque a disposizione dei nostri insegnanti del Ministero dell'Istruzione anche per l'anno prossimo. Ho ancora un paio di domande e soltanto pochi minuti, quindi le chiedo proprio delle risposte sintetiche. Un insegnante di una classe in quarantena può rifiutarsi di lavorare da remoto? No, perché sia nelle linee guida che abbiamo predisposto, sia nell'ultimo documento che abbiamo scritto con l'Istituto Superiore di Sanità, si è appunto deciso che se la classe fosse in quarantena, la didattica si deve continuare, perché non possiamo pensare di interrompere gli apprendimenti degli studenti per 14 giorni. Quindi io penso che in questa situazione ci voglia anche un po' di buonsenso, tra l'altro non è soltanto l'Italia che sta andando in questa direzione, tutti i paesi europei stanno facendo così. Io ho avuto ieri un incontro con i ministri dell'istruzione del G20, ci siamo confrontati anche su questi temi e devo dire che siamo tutti abbastanza concordi nell'operare come le ho appena detto. Mascherina sì, mascherina no, i ragazzi a scuola tutti dall'elementare in poi avranno la mascherina? Assolutamente sì, noi ne distribuiremo, se ne sta occupando il commissario Arcuri, 11 milioni al giorno di mascherine, anche i gel igienizzanti. La mascherina va utilizzata in situazioni di dinamicità, per cui all'ingresso della scuola, in uscita, se ci si muove dentro la classe, se ci si muove nei corridoi, insomma in tutte quelle situazioni dinamiche e di movimento. Se si è seduti e c'è il metro di distanza, la mascherina si può abbassare, quindi il distanziamento permette di abbassare la mascherina, se no deve essere utilizzata, questo per tutelare la salute di tutti. La salute di tutti rappresenta la nostra prima priorità. Certo, a proposito di salute, in questi giorni si partecipa con grande attenzione alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi ha in due diverse occasioni chiesto rispetto per la malattia del padre e ha detto che si è scatenata una ricerca ossessiva di conflitti in famiglia e che le sono stati attribuiti pensieri che non ha mai avuto. Lei condivide questa denuncia dei media? Pensa che Marina Berlusconi abbia ragione? Io credo che ci voglia molto rispetto quando si parla delle malattie altrui, tra l'altro soprattutto se si fa riferimento a familiari, in questo caso Marina o Barbara, ho letto insomma diversi pezzi a proposito, il rispetto nei confronti delle singole persone, chiunque queste siano, anche se hanno avuto dei ruoli importanti come quello che ha avuto Silvio Berlusconi nel paese, credo che sia proprio dovuto e non si dovrebbe assolutamente cavalcare, non si dovrebbero cavalcare sentimenti di odio o altro in questo momento rispetto appunto a chi ha una malattia in corso, qualsiasi cittadino sia. E in conclusione, l'abbiamo vista con la mascherina I love students, metterà anche quella I love teachers? Guardi, non sono in contrapposizione e in antitesi, io sono stata docente, ho molto rispetto per i miei colleghi docenti, ma anche per tutto il personale ATA che ha fatto un lavoro enorme quest'estate insieme ai dirigenti scolastici. I love school, dai, va bene anche, amo la scuola in generale. Una mascherina così. Sì. Grazie, allora l'ha finito il caffè? Io sì, la mia tazzina è vuota, grazie per aver preso il primo caffè della domenica con noi a Radio 24. Grazie a lei, buona continuazione.